ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Era l'ultima chance quella di insistere ad avere qualcosa, per cui il bambino si è ripreso nel giro di 20 giorni ed è qui con noi, sopravvive. Da una parte centinaia di bambini malati, dall'altra i paletti della scienza e della legge. Da un lato le famiglie disposte a sperimentare ogni strada che dia loro una speranza, dall'altra le incognite di un metodo non convenzionale. Da una parte gli attacchi di Nature e le regole della Commissione europea, dall'altra Stamina, la storia cioè di due medici italiani, di un centro e di una terapia basata sull'uso di cellule staminali finita al centro di battaglie giudiziarie e pure politiche. Più volte i giudici sono intervenuti per fermare i cicli a cui Sofia, Celeste, Daniele e tutti gli altri bimbi affetti da gravissime patologie si stavano sottoponendo presso la fondazione a Brescia di Davide Vannoni e Marino Andolina, finché il decreto Balduzzi, approvato dal Senato, ha dato il via libera alla prosecuzione del trattamento, provocando però la reazione del mondo della scienza e lo stretto monitoraggio delle autorità europee. Di malati usati come cavie di laboratorio parla la più autorevole testata scientifica, Nature, con un monito: se anche Montecitorio dovesse approvare il testo, l'Italia entrerà in disaccordo con le regole europee e quelle della Food and Drug Administration. È una storia delicata, complicata e in ogni caso molto triste questa, perché al di là di tutto è una storia che ha al centro tantissimi bimbi e tutte le loro famiglie in lotta contro terribili mali. Questa è la storia, ad esempio, di Daniele, raccontata dal nonno Vito Tortorelli. È una piccola buona notizia. Alcuni pazienti che non potevano accedere alle cure perché non erano neanche andati dall'avvocato ma avevano cominciato 6 mesi fa la cura, eccetera, potranno andare avanti senza dover spendere soldi per fare ricorsi, eccetera. C'è stata un'apertura che apprezzo e posso anche ringraziare il ministro di questo. Però le ultime parole fanno presagire una tragedia. In che senso? Questo è il contentino ad alcune famiglie, le più aggressive. Il comunicato stampa fa prevedere il prossimo decreto, che potrebbe essere un decreto di abrogazione del decreto turco. Vuol dire chiudere per sempre le terapie con cellule staminali. Saranno imposte le regole europee, che vuol dire che io mi ammalo oggi e mi cureranno fra 5 anni, dopo il mio seppellimento. Cioè, a quel punto vorrà dire che voi non potrete più in alcun modo operare? I giudici potranno ancora contraddire il ministro, credo. Se in caso ci fosse questo tipo di provvedimento, voi farete una battaglia legale ancora? I nostri pazienti diventerà tutto più difficile. Avete un'idea di quante persone potranno andare avanti con queste cure? Le mail erano circa 9.000. Di appelli a Stamina per iniziare le cure. Noi li rispondiamo che non sappiamo cosa fare, che però è una loro scelta di andare dall'avvocato. Noi siamo disponibili. Cioè 9.000 per chiedere di sottoporsi a queste terapie, ma quante invece sono già sotto terapia e che quindi potranno andare avanti con questo provvedimento? Una trentina, credo, dai 25 a 30. Poi in realtà ci sono anche i limiti dell'ospedale di Brescia, che non può fare più di 5-8 terapie al mese, quindi calcoli che abbiamo lavoro per qualche secolo. Se veramente il decreto turco viene modificato o abrogato, questo dimostra che noi avevamo ragione e che siamo stati sottoposti a un abuso. Il fatto che abbiano intenzione di cambiarla vuol dire che sono resi conto che il decreto turco era perfettamente applicabile. Non si è voluto applicarlo, quindi sono stati fatti degli abusi a cui sono conseguiti dei decessi. E adesso proprio questo nuovo decreto, se avranno il coraggio di farlo uscire, dimostrerà che avevamo ragione noi. Siete comunque abbastanza, diciamo così, convinti del fatto che ci sarà quest'altro provvedimento? Che l'abbia già scritto, non c'è dubbio. Che abbia il coraggio di portarlo al Consiglio dei Ministri, dobbiamo vedere se lo fa. Sappiamo che lo ha scritto, dovrà dirlo anche al Parlamento, dove si sta creando già un gruppo di deputati piuttosto agguerrito. La battaglia si trasferirà a livello parlamentare, credo. Quel decreto non avrà vita facile. Agguerrito a suo favore o contro il ministro? Sì, agguerrito in favore dei pazienti. C'è un gruppo notevole di deputati che sono interessati a riportare la legalità nel paese, cioè di applicare sul serio il decreto turco. Con comprensibile apprensione, le famiglie dei bimbi in cura aspettano ogni passaggio legislativo della battaglia intorno al caso Stamina, come quello giudiziario, dopo l'apertura a Torino di un'indagine che ipotizza pure la truffa, oltre all'accusa di somministrazione di farmaci imperfetti e pericolosi per la salute pubblica. Ma che cos'è davvero Stamina? Perché anche un premio Nobel è insorto contro questo metodo che secondo i familiari dei malati invece porterebbe miglioramenti? Possono avere dei rischi quelle terapie? Per questo la scienza protesta? Per Davide Vannoni, professore associato di psicologia all'Università di Udine e anima di Stamina insieme ad Andolina, le ragioni invece sono tutt'altre. Gli emendamenti al decreto Balduzzi non si fermano solo a chi ha già iniziato le terapie, ma anche a tutti coloro che richiedono di poter accedere alle terapie con staminali. Lo chiamerei decreto anti-Balduzzi, che ormai sta passando alla Camera. È un decreto che in ambienti controllati, nell'ambito dei centri trapianti, senza alcun fine di lucro e senza neanche una finalità successiva, prevede che poi ciò che viene utilizzato sui pazienti, anche producendo risultati, possa diventare oggetto di lucro o oggetto di vendita al Servizio Sanitario Nazionale. Questi sono degli elementi che ho apprezzato molto, l'hanno apprezzato molto anche tutte le persone ormai in questa lista di attesa che stanno aspettando di poter iniziare le cure. Ad oggi siamo a più di 12.000 richieste, prevalentemente bambini con malattie rare. Ritengo che sia stato, e spero che lo rettifichi la Camera, un grande passaggio di civiltà. Non vogliamo finire nell'ambito di una sperimentazione malfatta, chiederemo che a vigilare su questa sperimentazione ci sia una CRO, che sono delle società internazionali indipendenti. Credo che questa poi possa diventare un'apertura per curare molti pazienti anche di altre malattie. Questo è il vostro auspicio, però nel concreto voi dovete fare i conti anche con una comunità scientifica che è la prima in qualche modo a sollevare dubbi, a mettere paletti sul vostro operato, da ultime anche le preoccupazioni di un premio Nobel. Come commentate? I 13 scienziati italiani che si sono lamentati non mi fanno preoccupare per niente. Sono persone che hanno probabilmente anche dei loro altri interessi che vanno ben al di là della scienza, e quello che le posso dire, quello che auspico, è che possano dimostrare la loro correttezza e la loro umanità qualora abbiano dei metodi che funzionano meglio di quelli di Stamina su queste malattie. Potranno tranquillamente anche loro usufruire di questa legge, di questa sperimentazione, per poter salvare delle vite. Se non hanno metodi e se non hanno idee, fanno molto meglio a stare zitti e non a salvare una scienza che, da come la stanno vendendo loro, diventa un meccanismo per uccidere le persone. E siccome sono un scienziato anch'io e la scienza la amo e la rispetto, ritengo che debba essere al servizio delle persone e non paventare false preoccupazioni nelle persone quando e soprattutto non ci sono altre speranze di cura. Queste persone vengono abbandonate a se stesse. In Italia si fa eutanasia attiva per uccidere questi bambini somministrandogli morfina, codeina e Lexotan. Noi abbiamo tante famiglie che ci portano le prescrizioni di questi farmaci che li soffocano e li uccidono, e quindi se questa è la scienza che deve essere difesa, mi dispiace, ma in me non trova casa. Ma perché secondo lei la scienza è così scettica sul metodo Stamina? Noi siamo stati contattati da 6 università diverse, italiane, che ci hanno chiesto di poter collaborare con noi per portare avanti questa sperimentazione. Non parlerei di scienza, ma parlerei di 13 persone che hanno i loro interessi e quindi stanno difendendo a oltranza un qualcosa che neanche i nostri organi politici e di tutela, a quanto pare, sono in linea con loro. E poi un loro amico premio Nobel si è detto preoccupato senza conoscere la metodica che viene utilizzata. Se facciamo così non stiamo più parlando di scienza, stiamo parlando di opinioni politiche. Cioè lei dice che c'è una strumentalizzazione politica anche nelle opposizioni nei confronti di questo metodo, di questa terapia? Io non ho mai visto delle opposizioni così iraconde come quelle che ci sono state in questi giorni. Se la scienza è quella che si fonda sulle prove e le sperimentazioni, oggi il governo italiano, se passa in Parlamento quello che ha decretato il Senato all'unanimità, ha l'occasione di fare una grandissima sperimentazione che può essere utile a tutti gli scienziati del mondo. Anche la storia passata racconta di tante importanti scoperte mediche che all'inizio furono osteggiate, non furono credute. È vero anche dall'altra parte che soprattutto nella cura di mali terribili come i tumori. L'Italia, diciamo, ha ancora recente il ricordo delle vicende, delle polemiche che ci furono intorno al caso di Bella. A chi associa il suo nome al caso di Bella, lei cosa risponde? Ma intanto le dico che noi lavoriamo all'interno di un ospedale pubblico italiano che ha avuto a suo tempo un'approvazione dell'AIFA e del Ministero della Salute, trattando pazienti in condizioni molto controllate, con valutazioni strumentali fatte da medici dell'ospedale e da medici terzi esterni. Stiamo lavorando nell'ambito di un laboratorio del centro trapianti, stiamo lavorando gratuitamente, nel senso che non chiediamo neanche nessun rimborso al Servizio Sanitario Nazionale per le cellule che produciamo, le produciamo a nostre spese. Forse è stato un po' anomalo l'averlo bloccato. Lo stesso TAR di Brescia, al quale si è rivolto l'ospedale per l'illegittimità del blocco che era stato fatto, ha spostato l'udienza a settembre, dicendo che avrebbe giudicato legittimo o illegittimo il blocco dell'AIFA in base ai risultati ottenuti sui pazienti. Forse per questa ragione il Ministero ha deciso di far continuare le terapie a questi pazienti. Comincia in Ucraina e passa poi anche attraverso San Marino la storia di quello che attualmente è il più controverso metodo di cura, ribattezzato il DBEL delle staminali. Intorno a Stamina, la fondazione di Davide Vannoni e Marino Andolino si sta consumando una battaglia giudiziaria e ora anche politica. Da una parte le leggi e i paletti dell'Unione Europea insieme alle accuse della Procura di Torino, dall'altra le famiglie di bimbi con pesanti patologie. Da una parte l'affondo della scienza che parla di malati usati come cavie, dall'altra la difesa dei due professori che assicurano trasparenza e buona fede. Presto anche la Camera dei Deputati sarà chiamata a pronunciarsi su Stamina, confermando o meno quell'emendamento del decreto Balduzzi che ha fin qui autorizzato la prosecuzione delle terapie con staminali già in corso. Il dibattito allora si è arroventato e per questo a ciascuno il suo. Ora entra in una delle più complicate e difficili vicende degli ultimi tempi perché hanno al centro bimbi che soffrono come Celeste. Tra le prime ad arrivare alle cure di Vannoni e Dandolina, come racconta il padre Giampaolo Carrera. Sempre con speranza, anche se lei si può ben immaginare che per famiglie già colpite da, chiamiamola, una disavventura del genere, essere ancora una volta in balia della non certezza, almeno in questa cura che sta dando un così grande aiuto ai bambini, è comunque una situazione pesante, insomma. Quindi con apprensione ogni volta che c'è un passaggio politico o giudiziario. Certo. La vostra è innanzitutto una battaglia per salvare Celeste, che ha avuto anche una battaglia giudiziaria nel mezzo. Com'è andata? La terapia che stava seguendo Celeste, nel massimo rispetto delle leggi italiane, alla luce del sole, noi abbiamo fatto un ricorso d'urgenza, noi le cure le abbiamo riprese ad agosto e siamo riusciti a riaccedere alle cure tramite un ricorso al Tribunale del Lavoro. Voi non avete mai avuto dubbi sul fatto che questo tipo di terapie possano essere dannose? No, non abbiamo dubbi perché comunque siamo persone informate, abbiamo anche preso dei medici legali, dei biologi. E che effetto fa a voi sentire che, diciamo, gran parte del mondo della scienza e da ultimo anche la rivista Nature parla di malati utilizzati come cavie di laboratorio? Noi eravamo seguiti da un ospedale pubblico italiano, dove all'interno ci sono dei medici fantastici che ci hanno spiegato dall'A alla Z tutta la metodica, i rischi. I famosi centri di riferimento in Italia avevano, l'unica cosa che ci avevamo prospettato per Celeste era l'accompagnamento. Avete qualche forma di sostegno anche economico pubblico dallo Stato per, vista la gravità della malattia di Celeste? Non si riesce ad ottenere supporto qualificato dalle AS. Noi, per ottenere quello che è l'invalidità della Celeste, abbiamo impiegato 2 anni per ottenere 400 euro al mese. Autorizzazioni, supervisioni e controlli per ridurre i rischi. Questo richiede l'Agenzia Europea del Farmaco per ogni terapia. Questo prevede la legge per i trattamenti consentiti e per questo, invece, il metodo Stamina, prima del temporaneo via libera del decreto Balduzzi, è stato in passato già più volte bloccato dalla magistratura, che contesta invece la somministrazione di farmaci pericolosi alla salute pubblica. Sì, perché per l'Europa le staminali sono dei farmaci e qui risiede il cuore di una vicenda complicata che ha origine in Ucraina, in una paresi facciale, e che sullo sfondo ha anche i viaggi verso l'Oriente di tutti quelli che vogliono sottoporsi a terapie in Italia non consentite. Cuore della battaglia di Davide Vannoni. È iniziata da un'esperienza personale che ha coinciso con un mio interesse scientifico. Qual era la sua vicenda personale? Una paresi facciale non risolta, per la quale ho girato i migliori centri italiani. Ottenni qualcosa con questa terapia che, su consiglio di un docente universitario di medicina, andai a fare in Ucraina. Non ho mai avuto effetti collaterali, ho avuto un discreto recupero del nervo, ho deciso di portare questa cosa in Italia. Siamo arrivati ad avere la delibera della giunta regionale del Piemonte, che poi, anche allora, grazie a degli scienziati che avevano più interessi economici propri che non interessi della scienza, fu bloccato. Noi questo finanziamento non lo ricevemmo mai e decidemmo di portarlo avanti lo stesso all'estero, e poi, dopo l'incontro con Marino Andolina, cercammo di riportarlo in Italia presso il centro trapianti e terapia cellulare del Burlo Garofalo di Trieste. I soldi per partire, per iniziare e per creare il centro, da dove arrivavano? Due finanziamenti bancari e un finanziamento regionale. Il finanziamento regionale, che era quello che avrebbe dovuto arrivare, in realtà non arrivò mai, e noi ci esponemmo per 600.000 euro per riuscire a comprare la strumentazione, a pagare gli stipendi, a creare un gruppo di ricerca di biologi. È un metodo che voi avete importato dall'Ucraina e avete mandato i vostri medici a studiarlo in Ucraina? Noi abbiamo importato i biologi prima del metodo. Con noi hanno lavorato anche dei biologi francesi, biologi italiani. Questo metodo, al di fuori dell'Italia, è applicato oltre all'Ucraina in qualche altro paese? Così come lo facciamo noi, no. Mentre in altri paesi europei o in altri paesi, non so, negli Stati Uniti, questo metodo non è utilizzato, non è applicato. No, se ne usano altri. Lei ci ha raccontato un po' la storia di come è partita la vostra fondazione Stamia. Questo è uno degli elementi, ad esempio, dell'accusa che anche la Procura di Torino vi rivolge, laddove dice che la vostra è tutt'altro che una ollus, vi si accusa, diciamo, di voler lucrare sui malati, una delle accuse peggiori che possa essere fatta ad un medico. La ollus, la Stamina Foundation, che nasce nel 2009, non ha preso da nessun paziente, mai. Con alcuni dei pazienti venne richiesto di dare un conto per pagare le cellule. Nessuno ha mai fatto lucro con i soldi che alcuni pazienti hanno versato in seguito a fattura a una società estera, prodotte le cellule per loro e per altri pazienti. Ci stava dicendo che in alcuni casi in cui ci sono stati dei pagamenti da parte dei pazienti all'estero, perché all'estero innanzitutto? Beh, perché lì si era fatto il laboratorio per poter produrre le cellule, non un sottoscala. All'estero dove? San Marino. A San Marino, perché? A San Marino, perché San Marino, avevamo parlato col ministro della sanità di San Marino, lì non c'era una legge e quindi si poteva operare. Noi facemmo un laboratorio a pressione positiva, e siamo andati avanti 4 anni a inseguire le carte e le cartelle, mentre abbiamo però messo in cura 40 pazienti, una parte dei quali gratuita. Abbiamo sempre solo messo soldi. Lei si è fatto i conti di quanto avete investito? Io posso dire quanto ho investito io. Da giugno ad adesso ho messo dentro Stamina più di 150.000 euro. Ecco, dottor Vannoni, restano sempre le perplessità del fatto che voi abbiate scelto di andare a San Marino, laddove non ci sono delle regole per portare avanti una procedura. Perché non tentare la strada sicuramente ben più lunga, più faticosa, in qualche modo di sottoporre da subito, diciamo, il vostro percorso, l'iter stabilito dalla legge italiana? La legge italiana prevede una lunga sperimentazione che noi troviamo assolutamente sbagliata concettualmente, perché prevede di considerare le staminali dei farmaci. È arrivata un'assurda legge europea, che secondo me è una legge olocausto, ha trasformato le cellule staminali in farmaci. Questo ha imprigionato tutti, nessuno ha più fatto niente. Era una sperimentazione, ma che andava in parallelo alle terapie compassionevoli fatte a Brescia, e abbiamo infatti mandato tanto di raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero, dichiarando che eravamo disponibilissimi a fare la sperimentazione su una malattia rara. Se fossero considerati i trapianti come sono, oggi tutti gli ospedali italiani le starebbero applicando. L'Italia, proprio per tutta la vicenda Stamina, per il caso Stamina, ora potrebbe rischiare anche una procedura di infrazione da parte dell'Europa. Dietro ci sono degli interessi enormi, non solo sui farmaci, interessi anche in tantissime altre aree che sono quelle dell'assistenza, ma anche di altre patologie non curabili. Quindi la vostra richiesta è che l'Europa ora faccia una correzione, quindi non consideri più le staminali come un farmaco, ma come un organo. Come un organo, come un tessuto da trapiantare. Con